versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:33 primi, oggi siamo in ritardo di 3 minuti, vado subito al dunque. In questo 3 dicembre 2015, giovedì, che era iperatteso oramai da settimane per le decisioni della Banca Centrale Europea, che sono puntualmente venute questa mattina, in tarda mattinata, la conferenza stampa dalle 14:30 alle 15:30, quindi fino a un'ora fa, di Mario Draghi ha illustrato queste decisioni. Se avete sentito i flash sulle condizioni dei mercati, avete capito, e comunque se non eravate collegati ve lo ripeto brevemente, i mercati sono delusi, non conta molto la reazione dei mercati a breve, però sono delusi, danno l'idea quindi che gli operatori si aspettavano di più. Alle 4:25 il FTSE MIB era a meno 2 e qualche cosa per cento, e pochi minuti prima il DAX 30 a Francoforte meno 2,99, quello che perdeva di più era il CAC 40 a Parigi, che era al meno 3,25, e anche l'euro, a differenza di chi si aspettava che potesse o dovesse discendere rispetto al dollaro, invece sale con un più 2 qualcosa per cento, e quindi è adesso a quota 1,08 l'euro sul dollaro e rotti, e era arrivato a quota quasi 1,09. Però ripeto, questa è la reazione a breve, vuol dire poco se non che ingloba un po' di delusione. Allora, prima di presentarvi due ospiti con cui tenteremo di spiegarvi le conseguenze possibili, il significato della decisione di oggi, in brevissima sintesi, quali sono le decisioni? Vedremo poi se sono giustificate le reazioni dei mercati e comunque alla luce delle conseguenze possibili. Allora, la tesa generale, lo sapete, era quella di un ulteriore allascamento della politica monetaria, perché restiamo molto lontani dalle condizioni definite come obiettivo quando il quantitative easing è stato deciso, annunciato prima e deciso poi, cioè quello di tornare a una crescita nominale, cioè quella dell'inflazione, il più possibile vicino al 2%, che è il target del statutario, per così dire, della Banca Centrale Europea. Gli andamenti dell'inflazione sono in realtà molto lontani da questo obiettivo, e tant'è che le previsioni di inflazione della BCE sono rivelate totalmente fallaci, per così dire. Pensate che ad aprile dell'anno scorso la BCE prevedeva per il 2015 un'inflazione del più 0,13%, l'inflazione invece è più 0,1%, quindi sono tutte corrette al ribasso le aspettative di inflazione degli anni prossimi. Per questo, che cosa ha deciso la BCE oggi? Ha deciso di accrescere ulteriormente il tasso negativo, quello sui depositi che le banche tengono presso la banca centrale, che era già sceso in territorio negativo da meno 0,2% e ulteriormente sceso a meno 0,3%. Questa forse è la prima delusione del mercato, perché molti si aspettavano ancora di più. Seconda decisione, la durata del quantitative easing. Sapete che questi 60 miliardi al mese di acquisti erano stati annunciati fino al settembre del 2016, vengono protratti per 6 mesi fino a marzo 2017, con un'aggiunta che è venuta nella conferenza stampa, o anche oltre se necessario. Non viene toccato l'ammontare mensile degli acquisti sui mercati da parte della BCE, quindi si resta a 60 miliardi, forse anche questo è un elemento di delusione, c'era chi si aspettava di più. Altra decisione è quella invece di estendere i tipi di asset finanziari che la banca centrale acquista con il quantitative easing, lo sapete, oltre ai titoli del debito pubblico e a un po' di asset backed security, fanno l'ingresso, comincerà dal 9 dicembre, anche l'acquisto di titoli emessi da enti e amministrazioni locali. Allora, questa estensione serve in particolare a consentire alla BCE di comprare titoli tedeschi. Sapete che gli acquisti sono commisurati al peso che ciascun euromembro ha nel capitale della Banca Centrale Europea, se non che l'estensione della durata e del numero di titoli pubblici tedeschi che avevano un rendimento negativo rendeva sempre più complicato rispettare questa quota di acquisti tedeschi, perché la regola è che la Banca Centrale Europea non può comprare titoli che abbiano un rendimento inferiore a quello appunto del tasso che remunera i depositi delle banche presso la banca centrale, che infatti è sceso da meno 0,2 a meno 0,3 proprio per consentire l'acquisto di titoli pubblici tedeschi. Ci sono anche titoli pubblici locali italiani, vedremo in che misura potranno essere acquistati quindi dalla dalla BCE. Altra decisione assunta oggi è quella che i titoli acquistati nel frattempo, da che è cominciato il QE e fino a che durerà, se scadono prima della data oggi assunta come nuovo termine annunciato del quantitative easing, cioè il marzo 2017, non escono dal balance sheet, dal bilancio patrimoniale della Banca Centrale Europea, perché vengono rinnovati, quindi resteranno a carico della BCE per lungo tempo. Ecco, questo in sintesi estrema l'elenco delle decisioni assunte oggi dalla Banca Centrale Europea. Aggiungo che nella conferenza stampa abbiamo appreso delle cosette aggiuntive non secondarie. Chiesto di un giudizio sull'adeguatezza o meno a questo quadro, un quadro quindi non particolarmente soddisfacente, visto che giustifica queste nuove misure assunte, delle regole di flessibilità che la Commissione europea chiede di applicare sul consolidamento dei bilanci pubblici degli euromembri, Mario Draghi questa volta non ha dato una risposta abbastanza consueta negli anni alle nostre spalle, che dice i governi facciano tutto il loro dovere. Ha detto: noi sulla interpretazione della flessibilità di bilancio ci riserviamo questa volta un giudizio, perché non sappiamo ancora se non sia fondata la richiesta di più flessibilità. Ovviamente ci si riferiva anche alla richiesta italiana sulla legge di stabilità, perché, ha detto Draghi, bisogna vedere se l'interpretazione della flessibilità data dalla Commissione europea prima che si determinasse il fenomeno della deflazione che continuiamo a importare per via delle materie prime, della crisi dei BRICS, poi il fenomeno della crisi dell'immigrazione e infine il fenomeno del terrorismo, di cui ancora non sappiamo valutare gli effetti sull'economia reale e sul ciclo. Ecco, queste tre cose citate da Draghi ci inducono a dire che bisognerà valutare con attenzione se non sia invece fondata la richiesta di più flessibilità. Questa è una finestra aperta, in particolare verso il nostro paese, che ha avuto un giudizio, ve lo ricordo, di rischi di non conformità sulla bozza di legge di stabilità presentata alla Commissione europea. Ecco, mi fermo qua e vi presento ora i due ospiti ai quali chiediamo di spiegarci gli effetti, innanzitutto sulla vita di ciascuno di noi e poi sulla prevedibilità o meno di effetti aggiuntivi di crescita nello scenario 2016 di questo set di decisioni che per il momento pare non soddisfare molto il mercato. Ricordo a tutti che ci aspettiamo entro due settimane che la Fed invece riprenda un percorso di innalzamento dei tassi, ancora ieri la Yellen l'ha detto, anche se ha molto circoscritto l'attesa che poi seguiranno altri aumenti dei tassi. Ha detto più che altro oramai questa attesa è incorporata nei mercati, ma giudicheremo con grande attenzione e circospezione se poi a questo primo aumento contenuto dei tassi in arrivo da parte degli Stati Uniti ci siano effetti poi che ci inducano a continuare su quella strada oppure ad abbandonarla. Allora, sono con noi per parlarne il professor Tommaso Monacelli, che insegna macroeconomia all'Università Bocconi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professore. Buon pomeriggio a voi. E Andrea Boda, che è del sito pianoinclinato.it e consulente finanziario. Grazie Andrea Boda di essere con noi. Buongiorno a tutti, ciao Oscar. Comincio da Andrea Boda. La reazione dei mercati, giustificata o meno, secondo te, c'è qualche sorpresa in questa decisione di oggi ai tuoi occhi? Beh, la sorpresa indubbiamente c'è, i mercati ce lo dicono in maniera molto chiara, soprattutto anche sul cambio euro-dollaro, dove abbiamo avuto un balzo, il cambio stava stamattina intorno a 1,05, sì. È salito di oltre il 3%, 1,085 in questo momento, quindi sì. Un cambiamento davvero notevole nel giudizio del mercato sul cambio euro-dollaro. Io partirei da quello che Draghi ha detto alla fine, perché nell'ultima domanda ha risposto dicendo che pensiamo innanzitutto all'inflazione e soltanto in seconda istanza guardiamo alla crescita. Questo però contraddice un po' quello che lui ha dichiarato qualche minuto prima, quando ha detto che il quantitative easing viene protratto e viene rafforzato perché sta funzionando e non perché sta fallendo. Sì. Allora è chiaro che se sta funzionando e poi la cosa principale che guardi è l'inflazione ed è quella che viene revisionata a ribasso nelle stime, mentre c'è stata una leggera revisione a rialzo per quanto riguarda le stime di PIL, allora mi stai dicendo che sull'inflazione le cose non stanno funzionando perché revisioniamo a ribasso. Sulla crescita qualcosina meglio le cose stanno andando, ma in prima istanza tu guardi l'inflazione, pertanto diventa difficile sostenere che le cose stiano funzionando. Sì, ho twittato anch'io così quando ho sentito quella frase, a dire la verità, però era una reazione immediata, per così dire. Però, professor Monacelli, alcuni oggi, Wall Street Journal e molti siti anglosassoni, hanno detto in realtà con la giornata di oggi e quello che ci aspettiamo dalla Fed, c'è una specie di cambio di mano dopo tanti anni. Il cambio di mano significa che la BCE si troverà nelle condizioni, con le decisioni che assume oggi, e che adesso abbiamo appreso nel frattempo, di diventare la frontiera avanzata del risk management mondiale, cioè quello che ha fatto la Fed dal 2008 in poi, oggi spetta alla BCE per via dell'effetto che la deflazione importata dai paesi emergenti, dalla Cina, eccetera, eccetera, esercita in Europa, ma anche come segnale a tutte le altre banche centrali. Il segnale in realtà è quello che si continua sui tassi di deposito sull'overnight presso la banca centrale a scendere ulteriormente verso il terreno dei tassi negativi. È un cambio di prospettiva strategica. In definitiva è la stessa considerazione che adesso faceva Andrea Boda, cioè se l'inflazione diventa il drive. Ha detto Mario Draghi nella conferenza stampa: il tasso di deposito presso la BCE è diventato il main drive, cioè il punto di riferimento essenziale e più efficace della politica monetaria della BCE. Eravamo abituati per tanto tempo a considerare che fosse invece il tasso principale di rifinanziamento delle banche centrali lo strumento principale. È cambiata e resterà così per anni ancora mutato l'orizzonte delle acque di cui non abbiamo carte nautiche per poterci orizzontare, secondo lei? Ma guarda, io sono abbastanza sconfortato perché credo che qui diciamo stia sfuggendo un po' a tutti la portata gigantesca della stagnazione in cui si trova l'Europa, che è una sorta di gorilla da 100 kg nella stanza che Draghi fa finta di non guardare, guarda dritto fisso nella conferenza stampa e vicino a lui c'è questo problema gigantesco che chiaramente non può cambiare se dall'estensione degli acquisti del QE da settembre a 2016 a marzo 2017, come in matematica aggiungere a più infinito aggiungere un numero positivo, cioè non cambia niente, siamo sempre a più infinito. E anche perché, tutto sommato, passare da meno 0,2 a meno 0,3. Assolutamente, cioè quando ne parlavo riguardo agli acquisti del QE, il QE ha efficacia quando si parte da tassi di interesse a lungo termine che sono sufficientemente alti, e allora ha un effetto di primo ordine nell'abbassarli e a stimolare la crescita. Ma qui partiamo dalla condizione iniziale in cui i tassi di interesse a lungo termine sono già molto bassi, addirittura in Germania, tra parentesi, che senso ha continuare ad acquistare titoli tedeschi? È vero che c'è Evera, ma quindi gli effetti marginali, come si dice, cioè incrementali di questi del QE sono oramai nulli. Sì. Cioè, quello che deve fare come ombrello di protezione, probabilmente lo fa, ma in termini incrementali gli effetti sono nulli. Gli effetti riguardo alla tassa che le banche pagano nel tenere risorse presso la BCE, che di fatto è una tassa, cioè avere una remunerazione negativa, anche questi, quando ne parlavo con gli economisti della Banca Centrale di Svizzera, loro mi dicevano il vero lower bound sui tassi di interesse negativi è il confronto che le banche fanno tra tenere liquidità presso la BCE, cioè la Banca Centrale, e pagare il costo di una polizza di assicurazione per poter detenere queste risorse in un deposito privato, per esempio. Nel momento in cui noi scendessimo anche a meno 0,5, meno 0,6, non lo so quale possa essere, il punto è che le banche troveranno meno costoso tenere queste risorse parcheggiate invece che presso la BCE, presso delle, diciamo, dei posti privati. Dove ma sempre parcheggiate resteranno, non è che vanno nell'economia reale. Esatto, il margine fondamentale per le banche non è quello. Il margine fondamentale è: mi conviene tenerle parcheggiate o mi conviene impiegarle in prestiti, rischiare? Se l'economia va male, le banche preferiscono tenerle parcheggiate. È inutile che stiamo a continuare ad aggirare il problema fondamentale. I tassi di interesse sono bassi, i tassi di interesse reali sono molto bassi, perché le prospettive di crescita sono nulle, sono bassissime in Europa e nel mondo, e quindi continuare a insistere col QE vuol dire insistere sul sintomo, non sulla causa fondamentale di quello che sta succedendo. Invece una visione alternativa, professor Monacelli, che dicesse: no, mettiamolo all'obiettivo, anche se nello statuto la BCE non c'è, ma mettiamolo all'obiettivo la crescita, prevederebbe tanto, senza entrare nel tecnico, ma che ordine di strumenti, di che tipo? Allora, sono due cose, insomma, ne stavo proprio scrivendo adesso in ufficio, ma ci sono due cose che, diciamo, non convenzionali, non rivoluzionarie che la BCE potrebbe fare. Prima di tutto rendere il proprio target di inflazione simmetrico intorno al 2%, il che vuol dire che la BCE, mentre adesso dice che il suo obiettivo è il 2%, ma approcciando questo 2% dal basso, sì. No? Rendere simmetrico vuol dire che io sono segnalare che sono pronto a tollerare anche tassi di inflazione sufficientemente al di sopra del 2%, sì. Perché comunque garantisco che tornerò verso il 2%. E secondo è riportare in voga politiche di forward guidance che sono state sorprendentemente e misteriosamente abbandonate dalla BCE. E che per esempio potrebbero essere formulate non genericamente come tengo i tassi a zero per un periodo lungo di tempo eccetera, che nella situazione attuale sarebbe troppo vago, ma condizionare un impegno a tenere i tassi a zero a lungo, per esempio al raggiungimento di un certo tasso di disoccupazione in Europa. Allora, forward guidance lo traduciamo per chi ovviamente non è tenuto a spre il linguaggio di chi si occupa di banca centrale e politica monetaria. Per forward guidance di una banca centrale si intende la predisposizione annunciata, cioè in pubblico agli operatori dei mercati e a tutti noi, di obiettivi quantitativi, talora anche qualitativi oltre che quantitativi, che orienteranno con ragionevole ma molto elevata attendibilità in periodi più o meno lunghi, perché sono obiettivi, diciamo, challenge, che sfidano nel lungo tempo, l'orientamento delle decisioni assunte. Più sono predittivi, cioè sono attendibili nel lungo tempo, più, come ovvio, i mercati ci si possono fidare, fare affidamento in scelte di medio lungo corso, come per esempio quella dei rendimenti degli investimenti. Effettivamente, adesso giro la domanda a Andrea Boda, oramai siamo da un po' di tempo con la BCE, adesso interrompiamo per un minuto di informazioni sulle strade, ma intanto giro la domanda a Andrea Boda. Siamo entrati in una banca centrale europea che mese per mese, prima con le interviste di Draghi, poi con queste riunioni, diventa molto difficilmente prevedibile, il che spiega anche le reazioni, secondo me, di disagio e di delusione di oggi, perché il meccanismo di crescita reale non è mai indicato come obiettivo. Sembra di sì e poi la risposta è sempre no. Tra un minuto la risposta di Andrea Boda. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta per parlare delle decisioni assunte e comunicate dalla BCE oggi nel primo pomeriggio. Nel frattempo le agenzie hanno battuto, quando la trasmissione era già cominciata, la risposta aggiuntiva di Draghi a una domanda che gli è pervenuta fuori da conferenza stampa, perché alcuni hanno capito che la decisione di rinnovare i titoli intanto acquisiti in scadenza, alcuni hanno chiesto, cioè, ma cosa vuol dire? Che per titoli francesi e italiani si va a un finanziamento monetario del debito di questi due paesi, sapete che è vietato dai trattati, e Draghi lo ha espressamente negato, ha detto no, posso escludere completamente. Tra l'altro le voci dicono che la decisione di oggi, già come avete visto molto contenute e che hanno deluso i mercati, siano state assunte con il no della Germania e dell'Estonia, pare, ecco. Però queste sono voci, naturalmente, perché non lo sappiamo. Draghi ha detto assunte a larghissima maggioranza, però pare che siano la Germania e l'Estonia. Allora, Andrea Boda, avevo chiesto, non è che procediamo con segnali nella nebbia da parte della BCE? Guarda, ti parlo di quella che è la mia sensazione puramente personale, però credo che l'idea di base sia quella che l'abbondanza di liquidità deve in qualche modo trasformarsi in consumi, perché soltanto da quella parte poi si può riattivare un po' di crescita, e il clima deflattivo è assolutamente un disincentivo a questi consumi. Certo. Pertanto quello che si spera, io credo, da parte di Draghi, del Consiglio, che peraltro, come tu giustamente tu, non ha deciso in modo unanime, quindi probabilmente anche la decisione si tratta di un compromesso di quello che è stato poi il dibattito all'interno del Consiglio, probabilmente fa affidamento su alcuni fattori esogeni che in questo momento forse non stiamo considerando. Il primo è che la politica divergente della Federal Reserve dovrebbe arrivare a essere concreta a pochi giorni, visto che la Yellen ieri sostanzialmente ha detto a chiare lettere che non agire potrebbe portare a una recessione, quindi questo sicuramente è un fattore. Un altro fattore è che altre monete come lo yuan sono state inserite nel paniere del Fondo delle Monetario valute Internazionale, di riserva, sì. Delle valute di riserva, quindi questo dovrebbe portare forza anche su un'altra moneta, diciamo così, rivale, e anche questo potrebbe aiutarci a importare in qualche modo un po' di inflazione, o comunque a non rendere forte l'euro. E un terzo elemento che potrebbe essere di valore l'anno prossimo è che a gennaio avremo il ricalcolo delle basi su cui calcoliamo l'inflazione, perché i prezzi del commodity... Sì, è un po' come quando aggiorniamo il modo di calcolare il PIL con l'Istat italiano. Però può essere che tu abbia ragione, che sia questa la vera arma segreta. Naturalmente non stiamo parlando però del problema vero posto dal professor Bonaccelli, che è obiettivi seri di ripresa dell'economia reale. Quelli non fanno parte del quadro di obiettivi e dei limite di questa BCE che abbiamo costruito. Allora, continuate con la 24, naturalmente l'analisi proseguirà con Sebastiano Barisoni in Focus Economia, appuntamento con me, Alessandro Milano, domani mattina alle 8:15, attenti a noi due.